In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò e subito si alzò in piedi e li serviva. Gesù, dopo aver predicato e parlato nella sinagoga, va in una casa privata, la casa di Simone. Simone è il primo apostolo, ma ancora nel Vangelo, in questo Vangelo, che è il Vangelo di Luca, non risulta che sia stato chiamato dal Signore. Anzi, la chiamata di Pietro viene dopo questo episodio, proprio perché Pietro ha fiducia nel Signore perché ha visto quello che il Signore aveva fatto nella sua stessa casa, guarendo la suocera. Comunque, qui in questo brano abbiamo Gesù che entra nella casa di Simone e Simone che è un po' forse anche imbarazzato perché avrebbe dovuto offrire un bel pranzo a Gesù, ma invece la suocera è malata e quindi non può nemmeno fare niente. E Gesù, appena vede questa donna, o meglio, in questo Vangelo, pregano per lei, pregano il Signore di guarire questa donna. E Gesù, quindi, sentendo il desiderio di dei familiari che vogliono che la suocera di Simone venga guarita dalla febbre, che cosa fa? Si china su di lei e comanda alla febbre e la febbre lascia la suocera, cioè la suocera guarisce. E che cosa fa? Appena guarisce si alza in piedi e serve, si mette a servirli. Ecco, questo è si può dire, il primo miracolo di Gesù dopo quello che abbiamo visto ieri, che era appunto quell'indemoniato, no? Però è un miracolo che sembrerebbe non così strepitoso perché una febbre, la febbre oggi la sconfiggiamo facilmente, ma allora non era così facile come oggi. Comunque non è una di quelle malattie, di quelle proprio terribili, invalidanti che destano più stupore magari se uno riceve un miracolo da quella malattia. Tuttavia, e Gesù opera questo miracolo che sembra appunto un miracolo non tanto appariscente, però ci fa capire una cosa molto importante, che una volta ristabiliti nella salute, una volta ricevuto il miracolo, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo servire, cioè la vita è un servizio, la vita è fatta per servire. Se tu stai bene, se tu hai il dono della salute, non pensare che questo dono te lo devi tenere caro, stretto e non devi pensare agli altri, ma questo dono ti è dato per prenderti cura di quelli che non hanno questo dono. E quindi ci vuole sempre il servizio. Perché ci vuole il servizio? Perché il servizio è segno dell'amore. Gesù infatti che cosa dice? Io sono in mezzo a voi come uno che serve. Io non sono venuto per essere servito, ma per servire. Ecco, siamo chiamati oggi a riflettere su questo. Io come utilizzo i miei doni? Come utilizzo il dono della salute? Mi prendo cura delle persone che non hanno la salute o delle persone che hanno diversi bisogni? Se io ho qualunque dono, non solo quello della salute, qualunque altro dono, mi viene dato perché io me ne serva. E servendomi di questo dono, io posso veramente prendermi cura degli altri. Allora, ci sono due modi di utilizzare il dono, o di servirsene per il proprio egoismo, per il proprio prestigio, o di servirsene con amore. E ovviamente il Signore ci chiama a quello, a servircene per amore. Allora, facciamo un'analisi dei doni che abbiamo e vediamo se li utilizziamo per il servizio. E ricordiamoci che utilizzarli per il servizio ci fa diventare veramente grandi. Vi ricordate quando gli apostoli discutono tra di loro chi di loro è il più grande, chi è il più grande? E Gesù dice, il più grande si deve fare il più piccolo, deve servire gli altri. Io sono in mezzo a voi come colui che serve, eppure io sono Signore e Maestro. Quindi, se vogliamo essere veramente grandi, se vogliamo fare un dono della nostra vita, impariamo a servire perché servire è amare. Buona giornata.